Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Matteo Bussola e Federico Taddia. Ciao Matteo. Ciao Federico. Diamo subito le coordinate, come sempre, questo è l'appuntamento di Radio 24 per parlare ai papà. Ve lo ricordo, io e Matteo abbiamo 5 figli in 2. Due bimbe, Matteo che è un bravo padre, no? Sempre a casa, perché lavori a casa, fa la peperonata alle 18 quando lo chiamo per preparare la scaletta. Fai la peperonata sempre, tu, tutti i giorni? Sì, è una delle nostre pietanze preferite, più tardi anche la ricetta in diretta. Esatto. Io un po' più assente, ma insieme abbiamo scelto di fare questo viaggio per parlare ai tanti papà che ci vogliono essere, che vogliono dare significato al loro tempo. Le coordinate, come sempre, la nostra pagina Facebook, la pagina ufficiale dei Padri Eterni, poi il sito di Radio 24. Il tema di oggi è un tema molto attuale, che è la scelta delle attività extrascolastiche, che è sempre un po' complicata come scelta, Matteo. Assolutamente, ma più che complicata è una vera odissea, perché in realtà questi poveri bambini hanno tutti i pomeriggi impegnati da 10.000 attività di qualunque genere. Spesso i genitori si lamentano, no, anche giustamente, che i bambini non hanno quasi più tempo di essere bambini e danno la responsabilità di questa carenza di tempo ai compiti. Il problema forse non sono i compiti, ma è anche un po' tutto il resto. E poi c'è il padre che ovviamente partecipa a questa scelta, a volte la suggerisce, altre volte la impone. Poi c'è un po' l'ansia da prestazione, ci sono anche le aspettative, no? Che, per esempio, mio figlio grande giocava a basket perché io giocavo a basket, quindi è diventato naturale che lo accompagnassi. Poi lui è diventato molto più forte di me, però, quindi ho smesso di fare le partite uno contro uno contro di lui perché perdo brutalmente, però insomma fa parte dell'evoluzione. Questo. Assolutamente. Allora, per entrare in argomento vi facciamo ascoltare un audio, è un dialogo tra un papà e una mamma. Katia, che dici, quest'anno ad Agata facciamo fare il corso di English Drama? Ma prima di fare il corso di English Drama bisognerebbe parlare l'italiano, impararlo, esatto, perlomeno. Esatto. Comunque non è possibile perché lunedì a teatro, il martedì a catechismo che poi farà la comunione l'anno prossimo, il mercoledì a judo, il giovedì a danza moderna, il venerdì allo psicologo per tutte queste attività che fa, perciò non credo che sia proprio possibile. Ma io posso dirla una cosa? Tu eri presente durante il concepimento? Se non ricordo male, sì. Allora basta, posto così. Ciao. Conto fino a 3.it, il sito e la pagina Facebook di Angelo Pisani, comico, attore e papà, e questa sua paternità da qualche anno la racconta mettendola in scena nel suo giorno per giorno, oltre che a teatro. Lo scopriremo fra pochissimo. Ciao Angelo, buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica a voi. Ciao. Eccoci. Angelo. Ciao! Allora, ciao. Ti abbiamo sentito in questo dialogo con Katia, sì. Che non stavate recitando tra l'altro, no? Perché è no, così. No, no, è pura verità, perché anzi c'è, oltre a English Drama poi si è aggiunto, abbiamo ritirato l'avviso, il corso di scacchi, che mi sembra insomma giusto, per tenere occupato, come si diceva, il tempo dei nostri figli e poi dire che hanno troppo da fare, quindi. Certo. Angelo, una domanda al papà, ma è veramente un brutto momento quello della scelta delle attività extrascolastiche? Sono poche, sono troppe, c'è indecisione, c'è la tendenza a magari a imporre quello che piace a noi? Ma la premessa di base è che la mamma ti chiede e si confronta con te su cosa farle fare, ma ha già deciso via chat con le mamme a quale corso lo iscriverà, quindi voglio dire, la tua presenza è, il tuo parere insomma è discretamente inutile. Sì, la tendenza è un po' quella in generale a occupare tutti i pomeriggi. Sulla scelta secondo me si potrebbe, ecco, rimanere su cose un po' più semplici, perché adesso ci sono questi corsi di cucina, appunto questi corsi di scacchi, questi corsi di English Drama. Fondamentalmente per me rimane importante prima di tutto il gioco, ecco, anche un po' di tempo libero inteso come tale, dove fargli fare quello che vogliono e come vogliono. Cioè non c'è, come diciamo poco fa, un'ansia da prestazione anche, cioè non c'è un desiderio che comunque quello che sì, inizia come un gioco, magari un domani possa diventare altro. Ma no, Allora, in questo momento, per quanto mi riguarda, no, succede spesso che io mi ricordo che da piccolo venni iscritto classicamente, come succede a calcio, no? Un corso di calcio. In quel caso tutti i papà che volevano essere giocatori, molti sperano che il figlio possa diventare quello che loro non sono diventate, piuttosto che al corso di ginnastica le mamme. Può essere, ma questo lo capisci subito, è quando vai ai primi incontri, alle prime partite, vedi subito il genitore che è lì per appagare un suo desiderio, invece quello che lì per vedere il figlio che magari ha voglia di essere lì e divertirsi e basta. Vorrei insomma fare un coming out e dire che voglio molto bene ad Angelo, perché mi aiuta a tenere alta questa bandiera di papà presenti, di papà che lavorano in casa, che si occupano delle figlie, dei bambini e quindi anche della sfera affettiva, no, che è una cosa dalla quale noi tendenzialmente siamo esclusi, perché noi in base al luogo comune dobbiamo andare a lavorare, no, procurare i soldi, procurare la pagnotta, e di tutte queste altre robe qua si occupano le mamme, ecco, quindi viva Angelo. Detto questo, no, volevo dire che la questione delle aspettative, no? E quindi di caricare questi figli con queste attività numerose che vengono assegnate, di, come dire, prospettive future, deriva forse anche, se ci pensiamo, no? da questa scarsa o minore fiducia che c'è per esempio nella scuola, no? Un tempo la scuola si diceva prepara al mondo del lavoro, oggi non è più così, oggi le risorse vanno cercate fuori. Quindi il calcio, il corso di pianoforte, perché cerchi di individuare in maniera più precoce possibile una via. Il problema è che se questa cosa viene fatta in maniera sana, ha un senso anche per il bambino. Se la investi di eccessive aspettative, forse non è così buono. Angelo, conto fino a tre, tu ti metti in gioco come papà. Da dove nasce questo desiderio? Ma in realtà il desiderio nasce dal fatto che quando è nata Agata, io è nata in un momento in cui, come dire, non sapevo che cosa volessi fare da grande artisticamente, allora ho deciso di fare il papà e quindi ho iniziato a stare con lei, stavo a casa io e la mia compagna andava al lavoro, ma perché è assolutamente non normale, insomma, nelle famiglie ci si alterna, e poi in realtà mi è piaciuto, sono sincero, molto più di quanto pensassi. Da qui il desiderio di raccontare la mia vita con Agata con il sorriso, perché quello che ho iniziato a fare era raccontare ai miei amici, ma anche alle mogli dei miei amici, vedevo che raccontare la quotidianità però dalla voce del papà faceva sorridere, quindi tutto ciò che era ordinario diventava straordinario, perché poi in realtà uno non ne parla mai perché pensa che sia una cosa banale. E poi la verità è che mi è piaciuto e ho continuato a impostare il mio lavoro ritagliandomi il più spazio possibile per stare con Agata. Contofino3.it è appunto il sito, poi c'è la pagina Facebook con dei video molto brevi ma molto divertenti, quindi vi consiglio di andarli a vedere. E anche uno spettacolo teatrale, giusto Angelo? Sì, io porto in giro appunto questo spettacolo che si chiama Lo sai che i papà veri sono, ed è appunto sullo via via che si presentano, sono sulla pagina Facebook Conto Fino a 3, ed è parallelamente il racconto comico, ironico, di quello che è essere padre da quando la bambina nasce e via via aumenta, quindi la scelta da prima le pappe, i pannolini, dopodiché l'asilo, poi la scuola, poi gli open day, poi i corsi e poi i weekend, tutto in chiave ironica, ma non con l'idea di sminuire l'argomento, semplicemente di parlarne con ironia, che è un modo per anche stemperare, ecco. Vi siete iscritti a scacchi? No, ci stiamo pensando, ci vorremmo iscrivere per poi sabotare il corso. Mi sembra un'ottima strategia. Un grazie ad Angelo Pisani, che ritroveremo sicuramente qui a Padri Eterni. Ciao e buona domenica. Ciao ragazzi. Buona domenica, Angelo. Anche a voi, ciao. Ci fermiamo al momento del traffico, poi ancora qua. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta... Padri Eterni. Delle sere chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo devi fare ciò che ti fa stare bene, canta Caparezza nel suo nuovo bellissimo, almeno personalmente mi piace molto, pezzo. E così lo usiamo per introdurre l'argomento che stiamo trattando, che è quello delle scelte delle attività extrascolastiche. Proprio ieri è su Bologna questo sondaggio, lo stavo leggendo su un quotidiano locale, con che un ragazzo su cinque non fa sport, ragazzi delle scuole medie più come target, uno su tre non va mai al museo in un anno, l'80% non fa musica. Quindi c'è questo, no, questa strana alternanza, no? La paura di proporre troppe cose, poi tantissimi bambini, tantissimi ragazzi invece che non fanno niente. E poi ci sono i papà, ma tipo me, no? Che comunque corri per andare a vedere almeno un allenamento a settimana, facendo i salti mortali, la domenica vuoi esserci quando fa la partita, spesso anche non ci riesci, hai un po' di sensi di colpa, quindi fai magari anche la telefonata di troppo che diventa anche una telefonata indisponente. Allora oggi come hai giocato? Insomma, si fanno un sacco di errori e cerchiamo di capirci qualcosa. Lo facciamo con Isabella Gasperini, psicologa, psicoterapeuta e psicoterapeuta dello sport, che lavora prevalentemente con squadre di calcio, ma useremo il calcio un po' come metafora di tutte le attività sportive. Ciao Isabella, buona domenica e benvenuta a Padri Eterni. Salve a tutti. Buongiorno. Ciao. Isabella. Ciao. Allora Isabella, siamo un problema noi padri? Molte volte sì. Accidenti, speravo. Però che ci posso dire una cosa, sì è vero, lo siete, lo siamo. Come lo siamo anche le mamme a volte, però di certo bisogna subito dire questo, che qualsiasi cosa un genitore fa lo fa per amore, anche gli errori, perché involontariamente sono errori. Un po' siete giustificati, dai. Allora, usiamo il calcio, anche se insomma è anche un po' uno stereotipo, no? Che i ragazzi, sì, devono fare calcio, le ragazze pallavolo, sì, insomma per fortuna gli sport sono tanti e anche la contaminazione. Intanto, qual è il giusto comportamento per scegliere questa attività extrascolastica? Sceglie il genitore o sceglie il ragazzo? Allora, ovviamente la scelta dovrebbe farla il bambino, perché poi lo sport, insomma, ci si auspica che venga intrapreso a 5, 6 anni, 7. Devo dire che a volte il bambino è influenzato dai genitori e quando poi si trova in palestra, in campo e lo pratica, si vede. Perché il bambino che si mette a giocare con i gommini anziché essere preso dal pallone e corrergli dietro è sicuramente un bambino che nella sua scelta non è stato autonomo. Quindi bisogna subito dire una cosa, che noi genitori e soprattutto i papà, io vedo fare questo soprattutto da papà perché lavoro con il calcio e quindi c'è una prevalenza di maschietti, noi genitori dobbiamo capire che è molto facile cadere in un grande rischio, quello di vedere il proprio figlio come uno specchio dove riflettiamo l'immagine di noi stessi quando eravamo bambini. E quindi è come se ci viene data attraverso un figlio una seconda possibilità, cioè quella di poter recuperare e fare cose che noi non abbiamo fatto. È questo che rende il genitore un genitore che può creare dei problemi e può anche interferire nella scelta dello sport che il bambino deve praticare. Ci stiamo guardando io e Matteo pensando alle nostre scelte. Sì, no, io credo che poi no, basterebbe spesso, come dire, non dimenticare una cosa che è una questione, sì, abbastanza elementare, che spesso non siamo noi a scegliere le attività, ma sono le attività a scegliere noi. È vero. No, diceva Caparezza bene nella canzone prima, fai ciò che ti fa stare bene, cioè nel momento in cui tu fai ciò che ti piace, anche se in quel momento non sei bravo, anche se non sarai il migliore, è più facile che tu diventi bravo, se certo, è più facile che ti impegni facendo qualcosa che ti piace, se lo sceglie qualcun altro per te, forse hai meno chance. Isabella, però appunto il papà che per lavoro non c'è dal lunedì al sabato, ma la domenica riesce ad andare a vedere quella partita, ci deve andare. Assolutamente ci deve andare, però ci deve andare serenamente. Invece, come appunto tu prima dicevi, no, a volte a noi genitori è il senso di colpa che ci crea dei problemi, cioè il timore di non essere stato troppo vicino ai ragazzi, di non averli seguiti magari durante la settimana, quando vi posso dire una cosa, ai ragazzi interessa poco se durante la settimana i genitori sono in tribuna, perché loro sono talmente felici di allenarsi, di giocare, e parlo di tutte le fasce d'età, è un dettaglio quello che il genitore ci sia oppure no. Invece magari a loro fa piacere, soprattutto se sono bambini e preadolescenti, fa piacere la presenza in partita. Quindi mi viene da dare questo consiglio ai genitori: tutto ciò che riescono a fare, di farlo molto serenamente, perché poi invece è il senso di colpa di non fare le cose bene o di dedicare troppo poco spazio ai figli, è quello che fa stare male il genitore, e in questo modo passa il suo malessere al bambino. Tutto qua, non è tanto la quantità del tempo, piuttosto la qualità, no? dello sguardo con cui si guarda il proprio figlio che fa sport in quel momento, che si è lì. Isabella, ti chiedo un attimo, sì, di pazienza, nel senso che tra un attimo daremo la parola a un papà che spesso è a bordo campo. Prima però un altro papà, ed è il papà della ricerca della felicità, Willie Smith, in questo dialogo col figlio. Un professionista! Ok. Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Neanche a me è forte questo finale, Matteo. Sì, sì, beh, questo finale dice tutto, no? Perché poi il processo di crescita dei bambini è proprio questo, è un vero e proprio processo di tradimento delle aspettative dei genitori, no? Si diventa se stessi tradendo quello che gli altri si aspettano da noi. Ma questo dialogo, tra l'altro, è molto significativo per me, perché è riassumibile in questo altro dialogo, in questo meme che ha girato a lungo, forse lo avrai letto anche tu, no? Che diceva: lascia perdere, non sei bravo. E la risposta era: se lascio perdere, non sarò mai bravo. È vero, è vero. Abbiamo il piacere di avere ora con noi Marco Persica, un collega del Corriere della Sera di Milano, che pochi giorni fa ha scritto un bellissimo articolo intitolato «Io, papà del baby calciatore, tra l'ansia e la voglia matta di aver messo al mondo un fenomeno, ha la fortuna di avere un figlio di 9 anni che gioca in una squadra di altissimo livello e ha proprio raccontato dal suo punto di vista queste vicende domenicali a bordo campo che ben conosce. Ciao Marco, benvenuto a Padri Eterni. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Marco. Allora Marco, come si sta dall'altra parte della rete a bordo campo? Ma in una sorta di bolla, sospesi un po' tra cielo e terra. Io devo dire che ascoltavo la dottoressa Gasperini e le do ragione praticamente su tutto, nel senso che la mia esperienza è il segreto, come dire, della serenità del mio bambino. Intanto vi ringrazio di non averlo definito fenomeno, perché da quando, come dire, il giornale mi ha chiesto di raccontare un po' la mia esperienza di papà con un bambino che gioca a calcio, ormai è diventato il fenomeno. Invece, ringraziando Dio, il mio bambino non è un fenomeno, e nei 5 anni trascorsi a seguire il suo calcio, di fenomeni io in giro non ne ho visti tantissimi, per fortuna. Ho visto invece bambini guidati da una grandissima passione, e quella fa la grande differenza. Purtroppo, come dire, un po' caricati di aspettative. A bordo campo accade un po' di tutto, perché questi bambini purtroppo spesso, da un lato, sono caricati di aspettative, appunto, da parte dei genitori, e dall'altro sono nelle mani di tecnici che probabilmente calcisticamente sono molto preparati. Dal punto di vista, come dire, pedagogico, educativo, meno. E io faccio riferimento ad un universo che non è quello delle società professionistiche, dove al contrario devo dire, forse più attenzione, ci sono più risorse, insomma, caspita, c'è più esperienza. Certo, per definizione, però come dire, il grosso dei bambini vive e gioca lì, in quell'universo lì, no? E quindi dove lì è importante lavorare, Isabella, però si può lavorare, no, con i genitori in queste realtà? Allora, per esempio, io ci provo, ma forse riesco ad essere persuasiva, perché anche io sono un genitore che sto a bordo campo. I miei figli, addirittura adesso mio figlio grande fa l'allenatore, quindi mio figlio gioca. E come appunto diceva Marco, sì, in tribuna poi ti impari a conoscere quello che è l'ambiente che pesa su questi bambini. Certo. Invece si può fare molto, perché appunto noi, per esempio io nelle società dove lavoro, faccio degli incontri dove cerco di sensibilizzare i genitori proprio a questo discorso, al discorso che facevamo prima, che bisogna sempre sapersi distinguere dai propri figli, perché se si capisce che c'è questo rischio si evita, uh-huh. E che non bisogna interferire sulle loro esperienze, perché poi il bambino si limita, come il bellissimo prima, no? Il dialogo tra il papà e il figlio del film, La ricerca della felicità. In realtà quel papà a un certo punto ha avuto una presa di coscienza, è quella che io per esempio cerco di stimolare nei genitori, uh-huh. E cioè quella di dire: io non ci sono riuscito, ma se a te ti vedo in modo positivo, forse tu ci riuscirai. Perché guardate, è così, lavorando certo. Con i bambini sono come li vestiamo, cioè se noi vediamo in un bambino che ha delle qualità, il bambino le tira fuori, anche il bambino che magari fisicamente non è del tutto atletico. Certo. E è vero che tanti tecnici non sono pronti e fanno più danni, tra virgolette, dei genitori. Grazie Isabella, ricordiamo isabellagasperini.com per conoscere tutta la sua attività. L'articolo di Marco invece lo abbiamo già pubblicato nella nostra pagina Facebook. Marco, in sintesi, prima di salutarci, c'è una cosa che non hai detto a quei papà e oggi le puoi dire, visto che siamo in radio? Assolutamente sì. Lavate a mano la divisa del bambino. E vuol dire tutto questo, perché io dopo gli allenamenti e dopo le partite di Giovanni mi sono imposto di lavare a mano per toccare di nuovo con mano il suo essere bambino. Quando lavo quei calzettoni piccoli, mm-hmm. piccoli, e ricordo a me stesso che è un bambino. Fantastico, un ottimo consiglio, lo faremo nostro. Grazie Marco, buona domenica. Ciao, grazie, Marco. Grazie davvero, grazie. Ciao. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Questo è sempre Padri Eterni, l'appuntamento di Radio 24 per i padri. Oggi stiamo dedicando questa puntata alle attività extrascolastiche, il calcio, che insomma l'ha fatto da padrona, comunque gli sport in generale, e poi c'è anche il resto, le attività artistiche, le lingue, insomma tutto quello che le nostre figlie e i nostri figli amano quasi sempre, spesso, insomma si spera fare. Prima però di continuare è il momento della nostra rubrica, il nostro appuntamento con la voce dei più giovani, perché sono proprio loro, i ragazzi e le ragazze, che ci danno un consiglio a noi padri in ogni puntata. Lo fanno attraverso dei messaggi vocali che ci mandano via email, via posta elettronica, attraverso i messaggi di Facebook. Oggi sentiamo un po' chi c'è. Ciao, sono Emma, 16 anni, e ai papà vorrei dire che per essere felici con i propri figli bisogna semplicemente fare le cose che a loro piace fare, come andare a correre assieme a loro, andare a vedere una loro partita, o anche semplicemente una mattina svegliarsi e accompagnarli a scuola, che fa sempre piacere, e di fare, insomma, di stupirli, e anche ovviamente anche alle mogli, alle mamme. Fargli magari un regalo ogni tanto e preparare la cena, oppure preparare la colazione e portare la colazione a letto, e diciamo che fa sempre piacere. E quindi niente, fate quello che piace a noi figli, e ovviamente senza esagerare. Questo ovviamente senza esagerare è preoccupante. No, io la adoro perché ha esordito, no, dicendo cari papà, dovete fare le cose che ci piace fare, e poi ha elencato tutte cose normalissime, e quindi preparare la cena, accompagnarli a scuola. E devo dire che, per quella che è la mia esperienza, è proprio questo il punto, no? Che spesso, come dicevamo prima, i genitori carichi di questo senso di colpa nel poco tempo che hanno cercano di riempire il tempo di figli di tutte cose eccezionali. In realtà la quotidianità anche domenicale, a seconda del tempo che uno ha, naturalmente, è quella che conta di più. Forse addirittura annoiarsi insieme. Cucinare insieme è una cosa bellissima, guardare un telefilm insieme, insomma, non serve fare cose straordinarie, basta riuscire a trovare lo straordinario nell'ordinario. Però disse anche, ho usato la parola stupire, ci dovete stupire, quindi io mi immagino, insomma, sono a casa poche ore, quella domenica pomeriggio vorrei stupirli i miei figli. Ma guarda, per come siamo messi, secondo me i figli ormai li stupiamo anche semplicemente stando lì. Tu dici? Soprattutto visto la maggior parte di noi che ha poco tempo, ha lavori che li portano lontani, eccetera. Quindi lo stupire a volte vuol dire semplicemente passare del tempo insieme. Grazie ad Emma, aspettiamo ovviamente i consigli di tante altre ragazze e tanti altri ragazzi. Adesso torniamo all'argomento e parliamo di una categoria di figli molto importante, che sono i figli plus dotati, quelli che hanno un talento. Ecco lì, qual è il comportamento giusto per non fare danni, no? Perché c'è un talento, quindi fai di tutto per alimentarlo, fai di tutto per ingabbiarlo, fai di tutto per... Attenzione, perché anche lì le aspettative magari possono crescere, quindi le possibilità di fare errori sono tante. Ne parliamo con Roberta Renati, che è psicoterapeuta e responsabile del centro Phronesis della Fondazione Eris di Milano, che è un centro che supporta proprio le ragazze e i ragazzi talentuosi e le loro famiglie. Buona domenica Roberta, benvenuta. Buona domenica, salve. Allora, dove sono le trappole? Diciamo così, che spesso noi al centro incontriamo dei papà che sono preoccupati e spaventati perché temono di non avere le risorse adeguate per riuscire a sostenere al meglio i talenti dei loro figli. I loro figli che in qualche modo hanno delle eccezionalità, che possono essere in ambito cognitivo, in ambito musicale, in ambito sportivo, anche in ambito artistico. Spesso temono quindi di non rispondere ai loro bisogni, sono bambini che fin da piccoli sono dei bambini molto richiestivi, fanno domande, hanno tanti interessi, vogliono fare tante cose diverse e quindi i padri cercano di investire tutte le loro energie per cercare di supportarli. Uno dei rischi grossi è quello di in qualche modo non affidarsi anche ad altre agenzie educative, come la scuola ad esempio o gli allenatori. Ma Roberta, perché... sono padri, sì? Scusa, che non si sentono all'altezza o pensano che il resto del mondo non sia all'altezza dei loro figli? Nella maggior parte dei casi quelli che incontriamo noi sono padri che vivono la difficoltà di gestire il bambino perché sentono forse di non avere le risorse per tutelarli nel mondo. Forse il mondo della scuola soprattutto, in Italia in particolare, non è ancora pronto a tutto tondo per affrontare i bisogni di questi bambini con programmi anche didattici adeguati, costruiti ad hoc. E quindi... a volte questi bambini a scuola non si trovano bene, i genitori in qualche modo quindi si fanno un po' paladini di questo aspetto dei loro figli e cercano di sostenerli, a volte non riuscendo a costruire l'alleanza educativa con la scuola. Certo. Quindi il consiglio che posso dare io è quello di sicuramente farsi sostenere da dei professionisti e dall'altra parte cercare di costruire con gli insegnanti, ove possibile, un'alleanza educativa. Un'altra cosa importante e fondamentale è mantenere l'alleanza educativa con la propria moglie, ma questo vale un po' per tutti i padri, quindi con la propria moglie, con la propria compagna. È molto importante che i bambini e anche gli adolescenti sentano la coerenza nelle scelte educative dei genitori e nei comportamenti, anche quando mettono i limiti. E c'è il rischio anche invece di alzare troppo l'asticella? Cioè... sì, c'è il rischio di alzare troppo l'asticella e quindi di avere aspettative troppo elevate che possono schiacciare il bambino, anche se è un bambino molto talentuoso. E questo può portare sicuramente a un grande malessere del bambino. Il papà ha un ruolo fondamentale e se riesce ad avere delle aspettative appropriate, quando parlo di aspettative appropriate significa un gradino sopra le possibilità del bambino, quindi la giusta sfida per permettere al bambino di mettersi in gioco e assumersi il rischio anche di sbagliare, perché è importante che i papà li accompagnino nell'accettare l'errore. Spesso questi bambini fanno fatica a tollerare di poter sbagliare, a loro viene tutto molto facile e di fronte ai primi errori spesso si demoralizzano, si buttano giù, pensano di non essere più capaci, e per alcuni bambini può diventare un modo per non assumersi più il rischio della sfida. Quindi il papà deve sostenere questo aspetto, deve aiutarli anche con l'esempio vero e proprio nel riconoscere nell'errore un'opportunità. trovavo particolarmente interessante questa cosa che hai detto prima, no? Del fatto che molti genitori si diventano quasi i paladini dei loro figli. Sì. Io credo che in questo forse si possa annidare una qualche forma di problema, perché forse noi dovremmo ricordare che non siamo i loro paladini, ma siamo i difensori dei loro interessi. Esatto. Che è una cosa diversa, e forse in questo senso anche riuscire a trasmettere maggiore rispetto, per esempio, per le figure degli insegnanti è una questione. Assolutamente. È importante che papà si metta a fianco della mamma e che non lasci portare via spazio. È importante che si prenda il suo ruolo, e più il bambino cresce più importante il ruolo del papà. È sempre importante, è importante che passi del tempo con lui, non è importante che risolva sempre i problemi, è importante che riesca, come dicevate prima anche voi, mi è piaciuto molto quello che avete detto, che riesca a sedersi accanto al bambino o al ragazzino anche senza far niente, semplicemente stando in prossimità, in ascolto. È una vicinanza che non deve essere per forza legata al fare. Certo. E questa è una cosa un po' difficile da passare a volte. E tornano gli scacchi. In questi casi è meglio non sfidare il figlio a scacchi, perché poi si perde, si fa anche una brutta figura. Sto scherzando, ovviamente. C'è un altro aspetto che secondo me è molto importante, che questi bambini di talento spesso sono bravi in tutto. Il rischio è che perdano un po' il gusto dell'impegno, della perseveranza. Il papà può giocare un ottimo ruolo in questa partita. Devi insegnargli che per raggiungere un obiettivo e raggiungere l'eccellenza bisogna fare un sacco di fatica. Sì. E vale la regola delle 10.000 ore di lavoro per raggiungere un buon risultato. 10.000 sono tante, vabbè. Sono tante, ma si dice così, diciamo. Facciamo nostro. Grazie però, Roberta Renate. Ricordiamo www.centrofrenesis.it per tutte le informazioni. Adesso ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ci facciamo accompagnare verso il finale di questa puntata di Padri Eterni con questa bella musica, un brano che si intitola Allegra, composto e suonato da Paolo Iannacci, che abbiamo il piacere di avere con noi. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ma ciao ragazzi. Senti che bella energia, sentila. Allora, lo so, voi siete alla fine, io tu sei lì, cerco di tirarvi un po' su, insomma. Paolo, Allegra è il nome della tua figlia, che ha 9 anni se non erro. Sì, sai tutto, sai, ormai non si scampa più. Sì, è mia figlia, l'unica, ha 9 anni da poco. E fa musica? Ovviamente no, perché ovviamente tutte quelle ragazze o ragazzi dotati, perché ha un ottimo orecchio, lei non si sente di fare, di studiare o comunque di approcciarsi, e la sua scusa è: papà, noi siamo diversi. Cosa gli rispondi? Certo, dice così. A quel punto non hai. Quindi io sono convinto che non bisogna assolutamente forzare i propri figli, specialmente dal punto di vista artistico. Quindi un po' ti dispiace, però non glielo fai vedere? No, assolutamente non glielo faccio vedere, ma lei è molto brava in altro, nel senso che è molto brava a dipingere o a disegnare, quindi mi basta e mi avanza, poi chissà cosa succederà. Certo. Paolo, però ti ribalto la domanda, nel senso, tu sei artista, però tuo padre è anche un artista, tu ti sei sentito costretto a fare musica? No, perché io ho imparato un po' dal papà a gestire la bambina. Perché lui aveva intravisto il mio talento. Sì. E sono io che mi sono messo accanto a lui al pianoforte, comunque a toccare, a studiare, a sentire il pianoforte. Poi il papà aveva un rispetto anche esagerato, reverenziale per lo strumento e per l'arte. Infatti mi gridava: non si gioca con la musica, non si scherza con la musica, suona piano perché aveva paura che gli spappolassi il pianoforte, perché tu sa, voi sapete che i pianoforti sì. hanno meccaniche tarate e studiate per non rompersi mai, anche se li butti giù dalla finestra, mm-hmm. tranne i bambini di nome Iannacci, no? I bambini dai 5 agli 8 anni o dai 4 ai 12 anni, quelli possono distruggere qualsiasi cosa. Paolo, stavo leggendo la biografia su di te e leggevano che tu hai dichiarato che da adolescente con mio padre mi sono scontrato su tutto. E quindi mi chiedevo, anche dal punto di vista della musica, del pianoforte, se anche lì, anche questa cosa è stato un territorio di scontro. Io per esempio ho avuto un padre pittore, molto bravo, insomma piuttosto noto nella nostra città, che mi ha impedito di fare il liceo artistico. Io quando ero piccolo ho subito molto questa cosa, credo di averlo anche odiato. Poi quando sono riuscito a diventare disegnatore di fumetti, in qualche modo ho capito che questa cosa mi è servita per capire quanto davvero tenessi al disegno. E mi chiedevo anche nel tuo caso se questo ostacolarti o questi scontri ti avessero portato ad amare la musica di più. Sì, quella è stata, tra l'altro questa cosa è stata, mi fa impazzire perché è una frase estrapolata da una bella intervista che ho fatto con per Paolo Re per Vanity Fair, sì. E poi ho preso questa frase e mi sono strutturato come se fosse quella il climax dell'intervista. Beh, è vero, ma io non lo nego. Mm. Io con papà ho avuto un momento, questo era diciamo quello che ho detto, è stato un momento della mia adolescenza dove non lo sopportavo e probabilmente anche lui non mi sopportava, quindi c'era questo attrito che comunque alla fine invece si è calmierato e siamo diventati grandi amici, oltre che legare ancora di più dal punto di vista padre e figlio. Lo scontro era praticamente su tutto, perché sul modo di vedere la musica, il modo di catalogare le videocassette, il modo di comunque di qualsiasi cosa. Però noi ci incontravamo musicalmente, avevamo un grandissimo rispetto reciproco. E allora è stato un po' diverso dal tuo caso. Lo scontro era proprio sulle visioni, sulla visione della vita. Esattamente. Però la musica vi univa. La musica ci univa e magari nell'interpretazione musicale, che può essere differente, però comunque venivamo comunque uniti dal profondo rispetto della bellezza della musica. Però quella cosa che hai detto tu è una cosa molto, molto sottile, molto importante, e che quando da genitore costringi in un caso o nell'altro, cioè o il troppo o il troppo poco, in una tua volontà, fai danno, perché non rispetti la volontà di tuo figlio. Tu lo puoi aiutare tuo figlio, perché tuo figlio è comunque una piccola donna, non è che perché è tuo figlio puoi fare quello che vuoi. Questo è vero, è l'equilibrio tra il troppo e il troppo poco, è proprio credo il punto centrale. Di fare una cosa, ma perché devo soffrire per 15 anni una scelta? Poi tu sei diventato più bravo perché comunque hai sconfitto questa sofferenza e l'hai tramutata come una tua arma, perché comunque hai affinato la tua arte. Però non tutti hanno questa carica, questa potenza. È avuto tu, magari uno si va in depressione. L'ultima domanda, Paolo, ma questa etichetta di figlio d'arte ti pesa ancora? No, ma non è mai pesata. Io sono felice perché se mi dicono figlio d'arte, poi tanto alla fine, guarda, quando sei sul palcoscenico puoi essere figlio d'arte, figlio di nessuno. Se sei bravo, la gente sorride e c'è l'applauso. Certo. Se non sei bravo, se non arrivi, non succede niente, ti odiano e comunque ti dai solo fastidio. Quindi io l'ho vissuta come una cosa positiva, perché mi dava molta attenzione. Sì, come una opportunità, come giusto come che sia. Bravissimo. Certo. Però comunque la difficoltà ti dà un'opportunità di grande attenzione, però sei soggetto a critiche magari più severe. Bene, mi va bene. PaoloIannacci.com è il sito di Paolo per conoscere tutte le sue attività e la sua musica, le date delle esibizioni. Ciao Paolo, grazie per esserti grazie a voi, raccontato. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Ciao, Paolo. Ciao, ciao. Ciao, altrettanto. il momento dei saluti, un grazie ad Andrea Roccabella, oggi alla parte tecnica, Andrea Spenusi in assistenza, Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata, radio24.it come sempre il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica ed è il nome anche della pagina ufficiale di Facebook dove potete trovare tutti i contributi. Matteo, hai la tua lettera pronta? Eccola qua, questa settimana abbiamo scritto una lettera aperta a Jon Snow del Trono di Spade, niente meno. Io invece in mano ho un libro, si intitola Sono puri i loro sogni, esce tra un paio di giorni ma ne parleremo prestissimo, l'autore è un tal Matteo Bussola. Ma questa è la lettera, vai, noi ci ritroviamo ovviamente domenica prossima. Caro Jon Snow, questa settimana ti sei sposato con la tua Ygritte. Tutto il mondo ci sperava, perché c'è un grande bisogno di sogni che diventino realtà e di esempi che ci dicano, ecco, alla fine amarsi è una cosa semplice. Due giovani che si incontrano e non potrebbero essere più diversi. Uno figlio adottivo di un re e una selvaggia che vive oltre la barriera. Ma l'amore delle barriere se ne frega. Fra tutti i personaggi del Trono di Spade tu sei sempre stato il mio preferito. Non è perché sei il guerriero più forte di tutti, al punto d'essere riuscito a ingannare perfino la morte. Non è perché sei figo o perché sei leale e onesto al limite della pirlaggine. Men che meno perché nella settima stagione ti sei zompato pure Daenerys, nata della tempesta, la prima del suo nome, regina degli Andali e tutto il repertorio. No, niente di tutto questo. Tu sei sempre stato il mio preferito perché la tua storia dice chiara una cosa. Che i figli non sono di chi li mette al mondo, ma di chi se ne occupa. Di chi li cresce con amore, provvede ai loro bisogni, ci spende del tempo, è lì ad aiutarli a rialzarsi quando cadono, non tirandoli in piedi, ma dicendo loro, forza, sono qui. Sono di chi non bada a chi dice che ci sono famiglie più famiglie di altre, o figli più figli di altri, ma si interessa alla semplice sostanza dello stare. In un mondo in cui tutto sembra sfuggire, padre in fondo è chi resta, o almeno ci prova nonostante le difficoltà. Perciò buona fortuna, Jon Snow, perché l'inverno sta arrivando, ma l'amore ti ha trovato prima.